Circoli Rifugio Nessuno in Strada è un progetto che ha origine nei mesi più bui del 2020, cioè di quelli del lockdown, mesi in cui vedevamo con i nostri occhi che le situazioni di marginalità soffrivano ancora più di tutti quanti gli altri. Abbiamo voluto attenzionare, diciamo, questa situazione, abbiamo voluto attenzionare come la povertà piano piano allargasse le sue maglie e come purtroppo stia continuando a farlo. E abbiamo provato a costruire un progetto insieme alla nostra base associativa, insieme ai circoli, per rispondere sul territorio a questo bisogno. E il progetto è partito ufficialmente a settembre e in questi 3 mesi abbiamo rafforzato la rete dei circoli che avevano già all'attivo delle esperienze di mutuo soccorso e siamo riusciti a costruire una rete composta da 16 circoli e che coinvolge 12 regioni e 12 province. Voglio nominarli tutti perché penso che sia giusto, insomma, mi piace appunto dare questa restituzione. Quindi questa rete è composta dal circolo Ferrandina di Potenza in Basilicata, dal circolo Porco Rosso di Palermo in Sicilia, dal circolo Rosa Agrestis di Bergamo in Lombardia, dal circolo Scuola di Pace a Ventimiglia in Liguria, dai circoli Sant'Erminio e Jonas a Terni e a Perugia in Umbria, dal circolo Eventi Sociali di Napoli, dal circolo Madiba a Pistoia, dal circolo Tangram di Padova, al circolo Accatà e Cantieri Medici di Bologna, dal circolo Futura Imperfetta di Pescara e i circoli Pietralata, Brancaleone, Angelo Mai di Roma. Sono tutti circoli che hanno aderito volontariamente a questa iniziativa che in questi 3 mesi ha costruito questa rete e si è formata. Circoli Rifugio prevede di offrire, diciamo, ospitalità, accoglienza a tutte le persone che ne hanno bisogno. Non esistono veri requisiti per poter accedere a questi circoli. Si rivolge a tutti, si rivolge a persone italiane e si rivolge a persone straniere. Prevede due diverse modalità di accoglienza, sia l'accoglienza in famiglia, e col termine famiglia naturalmente nelle nostre realtà intendiamo tutti, cioè intendiamo una casa dove vivono delle persone che vogliono agire il cambiamento aprendo la porta della loro abitazione, offrendo accoglienza a una persona che in questo momento si trova per strada. Quindi pensiamo a case vissute da studenti, a case vissute da persone singole, a case vissute che decidono di aprire la propria porta. E poi accoglienza presso appartamenti o locali che prendono direttamente in gestione i soci del circolo. Ogni circolo ha un coordinatore o più coordinatori che seguiranno da vicino, diciamo, i percorsi di accoglienza delle persone. È un progetto che risponde, diciamo, a un'emergenza sociale, ma che ha l'ambizione di non avere un carattere emergenziale. Vogliamo in qualche modo, attraverso l'azione nei territori da parte dei nostri circoli, aiutare anche a raccontare in modo diverso le persone che vivono nelle nostre strade e le varie sfaccettature di chi vive ai margini della nostra società e della povertà. Pensiamo che è un modo per anche coinvolgere la cittadinanza tutta che può sia accogliere direttamente le persone, ma anche solo sostenere il circolo rifugio che ha deciso di accogliere, frequentare, ascoltare e aiutarci a raccontare in maniera diversa il disagio che sta attraversando la nostra società. Naturalmente tutto questo nasce in un contesto ben preciso che è quello caratterizzato dall'emergenza sanitaria a causa del Covid-19, che ha ostacolato ancora di più l'accesso ad alcuni servizi e l'esercizio di alcuni diritti basilari da parte delle persone, primo fra tutti quello alla casa, ad avere un luogo sicuro in cui stare e anche quello alla salute. Naturalmente Circoli Rifugio si inserisce in questo contesto e tutti i nostri circoli hanno previsto delle procedure chiare di ingresso in sicurezza delle persone in accoglienza, grazie alle reti territoriali che loro hanno costruito in questi anni, grazie alle loro attività, sono già riusciti a stipulare delle convenzioni e dei protocolli d'intesa con dei presidi sanitari locali per effettuare i tamponi all'ingresso. L'Arci Nazionale si è impegnato, stiamo per distribuire dispositivi di sicurezza a tutti i circoli rifugio, oltre a quelli che già, di cui già usufruiscono, quindi parliamo di mascherine, gel. Sappiamo benissimo che ci inseriamo in questo contesto e lo sappiamo proprio perché appunto è un progetto che nasce nell'osservazione del disagio durante la pandemia, che ha aumentato drasticamente, diciamo, la distanza dall'accesso ai servizi da parte delle persone che ne hanno bisogno. Quindi oggi siamo veramente molto contenti di lanciare questo progetto, siamo siamo molto contenti di farlo insieme agli amici e colleghi della Soga Caccai. Siamo convinti che è solo l'inizio di una gran bella esperienza di solidarietà che ci aiuta anche a raccontare l'enorme lavoro che i nostri circoli, nonostante il periodo molto difficile anche per loro, stanno facendo sul territorio e stanno, sebbene chiusi, riaprendo le loro porte, le loro finestre.